lì, qua sotto, questo pezzo di muretto qua, era arenato. Questa era la continuazione del canale che infatti lì si getta di sotto, no? Dove abbiamo visto quel pezzo di canale. Scusi. E questa è la continuazione. Vede quel muro di sopra? Ecco lì noi, perché dopo l'abbiamo costruito questo di sotto, però era tutto crollato e sì, quello di sopra infatti è l'originale, quello di sotto è nuovo. Comunque lì c'era il canale e qua c'era un ponte. Perché dunque qua c'è proprio un sasso che c'era come una passerella, ma tanti. No, qua, questo qua, Renato, no? È la continuazione del canale, no? Praticamente. C'era in pratica c'era il canale che andava per 300 metri dentro, prendeva l'acqua del torrente e la portava fino alle ruote di legno che erano lassù. E qua c'era un ponte, c'è ancora segnato sulle mappe.